effetto. Qua cermo di metafore che esprimono un concetto. Assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di capire in passato è solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e sparavista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare. Non esiste antidoto e la morte mentale. Opponi resistenza, non farti plagiare. Se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare. Preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male. Agire! E ciao, bentrovati anche questa volta ai nostri amici, amiche, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Wombat che si trovano per caso o perché ci hanno cercato in ascolto dello spazio radio della Stampa Rassegnata. La Stampa Rassegnata che vi ricordo dalla fine di luglio, in concomitanza con la, diciamo, la ricorrenza dell'assassinio di Carlo Giuliani e dei giorni del G8 di Genova del 2001, abbiamo cominciato a dedicare proprio a un ricordo delle vicende di Genova 2001 e delle contestazioni al G8. È una dedica che abbiamo deciso di fare a questa questione, a questa vicenda di Genova, perché l'abbiamo partecipata, perché la sentiamo ancora nostra, perché ci sembra un momento di svolta interessante e utile da un punto di vista politico e delle molte trasformazioni, soprattutto della militarizzazione del conflitto e poi a seguito di questa della militarizzazione del conflitto sociale e di tutta un'altra serie di vicende legate anche proprio a quegli avvenimenti, che siano sempre utili da ripercorrere per comprendere meglio il nostro presente e forse anche muoversi in maniera più agile e più compresa nel futuro immediato e prossimo. Vi ho messo per ricordare queste giornate di Genova una lunghissima trasmissione di Radio Onda Rossa che aveva fatto un ricordo di quelle giornate proprio guardando la cronaca, le cronache e i commenti dei principali quotidiani italiani usciti intorno alle giornate di Genova. Un impegno molto curioso e che ho trovato anche curioso e assolutamente interessante, proprio perché prendeva in analisi la stampa e quindi il trattamento mediatico della vicenda di Genova sia in alcuni giorni prima che in alcuni giorni dopo. In questa puntata di questa settimana siamo arrivati alla terza parte, cioè per esigenze di spazio legate alla nostra trasmissione l'abbiamo riproposta in tre parti. Questa sarà l'ultima parte che affronterà appunto le giornate del dopo Genova. Quindi siamo già arrivati al 25-26 luglio e arriveremo con alcuni giornali intorno ai primi 10 giorni di agosto. Ci sono appunto sono commenti, sono opinioni, perché ovviamente distanziandosi e prendendo spazio rispetto alle giornate a caldo, anche l'atteggiamento della stampa cambia, ma non sarò io a dirlo, proprio perché i due compagni della redazione di Radio Onda Rossa, con cui chi ha ascoltato le trasmissioni precedenti ormai ha preso un po' di confidenza e di familiarità, fanno questo lavoro di ricostruzione, di rilettura e di commento veramente ottimo e preziosissimo. Vi lascio anche alcune canzoni in questa puntata, canzoni che potete trovare se volete, visto che uno degli scopi, insomma, di questi ascolti estivi, ascolti sotto l'ombrellone, come si diceva una volta per le letture e per i libri, potete ritrovare su piazza Carlo Giuliani, scritto tutto attaccato, .it, che è il sito del comitato e dell'associazione Piazza Carlo Giuliani, nato proprio nei primi anni del dopo Genova, soprattutto ad opera di un motore emotivo e razionale che è stato veramente molto forte e decisivo negli anni del dopo Genova, che è stata Heidi Giuliani, cioè la madre di Carlo Giuliani. In quel sito trovate un sacco di materiali interessanti e tra questi anche tutta una serie di canzoni che sono state fatte o dedicate a Carlo o comunque legate alle vicende, ai trascorsi di Genova 2001, del G8. Quindi se vi dovesse interessare le cercate, noi le riproponiamo alcune, non quelle più famose che magari sono già conosciute dai nostri ascoltatori, non quelle legate ai gruppi, diciamo, mainstream, che comunque hanno dedicato parte della loro opera artistica anche a quelle giornate, ma neanche i gruppi più famosi all'interno del movimento, compresi i fiorentini Malasuerte di Firenze Sud, che molto probabilmente, insomma, sono già conosciuti. Vi ripropongo qualcosa di meno noto, probabilmente. Si comincia con Il Contratto Sociale, poi una credo milanese, GMA, e poi la Cricca Crew, con un po' di reggae. Sempre contro il G8, sempre contro i poteri forti e sempre per far crescere il movimento. Quindi un saluto, e ricordandovi che ci potete ascoltare in diretta il lunedì alle 15.30 o il mercoledì alle 23.59 oppure il giovedì presto, la mattina alle 8.30. Se no, con il podcast ci scaricate e ci ascoltate con l'MP3 sotto gli ombrelloni o ovunque voi siate in questa calda, caldissima estate. Nelle prossime puntate rimarremo sempre sul tema di Genova. Finita questa lunga trasmissione di Radio Onda Rossa, vi proporrò riproponendo alcuni materiali sempre di archivio, ma sempre legati a Genova, però insomma altre situazioni, altre chiacchiere e altre parole. Un saluto a tutti e tutte voi, a risentirci alla prossima settimana. Ciao ciao. Grazie. Sono passati 10 anni. Questo pezzo è per Carlo Giuliani. Appiccicoso rialza la testa, un anno dopo in piazza Rimonda, non c'è traffico, le strade sono vuote, la normalità è tornata a regnare, si sente ancora se stai ad ascoltare, le grida di piazza che vogliono restare, via Torino immersa nel traffico, ricorda lo scontro di un anno passato. Passato nel ricordo e nella speranza, uomini e di donne che scesero in piazza, nei loro sogni di un mondo migliore, di qualcosa da cambiare. A Genova non ha scordato, lei non può dimenticare, i nostri pensieri, il volo di un ideale. Ma Genova non ha scordato, mai, lei non può dimenticare, i vostri insulti, il ventennio tornare, i manganelli parlare. Gioia colori, studenti, operai, anime diverse, un solo pensiero, la marcia del sole contro la notte, lo spirito dei vecchi, delle loro lotte. Ricordo le danze, la musica intorno, scherzi e racconti di un popolo in marcia, valore e cultura, la nostra ragione, contro 8 idee di sopraffazione. Fuori il fuoco fu come un segnale, la legalità venne a mancare, disprezzo il corteo senza ragione, ma le nostre idee san volare. Genova non ha scordato, lei non può dimenticare, cambiare il vento, i nostri pensieri, il volo ideale. Ma Genova non ha scordato, mai, lei non può dimenticare, i vostri e l'asfalto di quelle strade è stato lavato per dimenticare, ma la memoria è figlia del vento e riporta l'immagine del luglio e dell'inverno. Genova è libera nei nostri occhi, nel ricordo di Carlo e dei suoi sogni, lo spirito dolce della protesta, la forza sincera di chi dice basta. Forse le strade ora sono sicure per chi dirige le vostre paure, ma so che quel sole verrà sulla notte di Genova. Genova non ha scordato, non puoi vincere il coraggio, la protesta è viva, è figlia del vento, ritornerà il nostro omaggio. Dal manifesto invece del 26 luglio vale la pena di leggere un pezzo del fondo di Rossana Rossanda. La Rossanda scrisse anche Pintor all'epoca, ma diciamo qualcosa di poco significativo. I fondi, uno l'abbiamo già letto, chi ha vinto a Genova, insomma la Rossanda già si poneva chi aveva vinto a Genova e chi aveva perso. Con quella predizione sbagliatissima che il movimento non sarebbe andato via, più via da nessuna parte, insomma non sarebbe più, e il 26 nel pieno, diciamo così, della polemica anche politica che montava sulle valutazioni, le interpretazioni eccetera eccetera, scrive un fondo dal titolo Sì o No, titolo sibillino, che la spiegazione, insomma, se si arriva a comprenderla alla fine, non lo leggiamo evidentemente tutto, Sì o No è rivolto ai DS, cioè alla sinistra, per dirgli insomma Genova è una discriminante, voi dovete scegliere, e di nuovo queste sono le cose diciamo tipiche della Rossanda negli anni passati. A Genova la reggenza dei DS non ha voluto andare, anzi dopo un ridicolo balletto ha lasciato il Genova Social Forum esposto al governo e alla polizia denunciandolo. Berlusconi e Fini non avrebbero potuto mandare la polizia e i carabinieri con quegli ordini contro la manifestazione che fosse sostenuta dall'opposizione, pur con tutti i distinguo che volessero. DS e Margherita l'hanno sconfessata. Incredibile la memoria corta di appena pochi mesi prima, a marzo 2001, ripeto, c'era stata il summit di Napoli dove al governo c'erano DS e Margherita, eppure insomma non è che le cose siano andate tanto indifferentemente. E non ci si venga a dire, seguita la Rossanda, e che ciò è accaduto per la violenza, nessuno è nato ieri, ma perché DS e Margherita stavano con i G8 e se fossero stati al governo avrebbero mandato la polizia contro i manifestanti, appunto. Si può sperare che fosse meno feroce, ma lo sapevano i diessini in piazza con vergogna e con amarezza, e adesso si preparano le mozioni per il congresso dei DS e bisognerà definirsi sulla discriminante che Genova ha tracciato. Non se la caveranno con parole. La gente che il GSF ha mosso da una parte e il duetto Berlusconi-Bush e Berlusconi-Fazio dall'altra premono in direzioni opposte. Il traccheggio di una mezza opposizione non può durare molto. D'Alema e Fassino con Giuliano Amato proporranno il Partito Socialista dei G8. Chi vuole l'unificazione nell'Ulivo propone il Partito Democratico dei G8. quello che appare ormai impresentabile è un correntone che vada tutti assieme appassionatamente da Salvi e Fumagalli, via Bassolino e Cofferati, a Mussi e Folena, presidente designato Massimo D'Alema. È finito il tempo delle manovre. Quello che è emerso in questi giorni è un popolo che va rappresentato, espresso, alimentato o contrastato. Gli va detto sì o no e se ne paga il prezzo. Anche questo mi sembra un esempio di ragionamento e previsione estremamente... Io il 2 agosto, non so tu che giorno hai lì. No, io ancora c'ho un paio di manifesti. Di cui il manifesto del 27, dove riporta diciamo notizie di cui già abbiamo dato conto leggendo gli altri giornali, ma ovviamente con un taglio differente. Si esalta il ruolo della FIOM, il social forum in tuta blu. La FIOM rivendica. Il direttivo dei meccanici della CGIL ribadisce la propria internità al Genova Social Forum e denuncia. Scaiola e De Gennaro sono i responsabili. Il sindaco Chiamparino la comuna ai Black Bloc e la sinistra DS si ribella. Per me la sinistra europea sono Blair e Jospin, non le tute nere, dice Chiamparino. E la sinistra diessina si infuria una volta di più. Abbiamo visto tutti quanti che fine hanno fatto. D'Alema, violenze fasciste, la destra respinge l'indagine parlamentare, l'arroganza di Ruggero, gli austriaci restano in galera, c'erano 17 triadranti, incredibile sentenza all'ambasciata, malmenati e minacciati, e la legge marziale di Genova sulla stampa europea, pesti e malconci, reduci a Londra, si dà conto delle cose, poi una... breve sintesi, ma vale la pena questa di leggerla tutta, su quello che succedeva a Bolzaneto, una delle tante testimonianze, evidentemente, storia dall'inferno, le testimonianze raccolte tra gli anti-global di Genova. Guido, un ragazzo dell'Arci di Torino, ha conosciuto l'inferno in terra, ha passato 24 ore nella caserma di Bolzaneto, rastrellato con altre 22 persone il pomeriggio del 21 luglio nel campeggio genovese di Re di Puglia. È arrivato nella tarda serata di venerdì 20, il giorno dopo verso mezzogiorno mi sono incamminato per raggiungere la manifestazione, ma poi sono tornato indietro perché avevo mal di pancia. Mai avrebbe immaginato cosa stava per accadergli. Verso le 14 è arrivata la polizia. Ci hanno detto che si trattava di un semplice controllo, volevano perquisire un furgoncino. La polizia fa la perquisizione e non trova nulla. Poi ricevono una telefonata, ci ripensano, chiedono a tutti i documenti. C'è un palo alto 6 metri conficcato nel terreno, lo spezzano in tre e lo portano via insieme alle armi improprie. Mi dispiace ragazzi, ma dovete venire con noi, li informa un poliziotto. In macchina il poliziotto era tranquillo, ricorda Guido. Abbiamo letto il giornale insieme, chiacchierato. Dovrebbe essere un semplice controllo, mi ha detto. Appena sceso dalla macchina alla caserma di Bolzaneto, Guido si rende conto che le cose non stanno così. Appena entrato, metti giù questa cazzo di testa, mi hanno urlato, e bang, una manganellata. Guido viene chiuso con altri 7 ragazzi e 5 ragazzi in una stanza. Dovranno stare per 24 ore in piedi, a gambe larghe, faccia rivolta al muro e braccia in alto. Dalle 15 del 21 luglio alle 15 del 22 luglio. Ho visto cose terribili, spruzzavano un gas strano, c'era gente che sputava sangue, non potevamo girarci, era pieno di polizia e carabinieri, faccia al muro, bracci in alto, continuavano a gridare, e poi, zecche di merda, adesso viene la vostra amica Sole a salvarvi. Sole è la compagna, Sole e Baleno, i compagni torinesi, suicidi in carcere, e poi viene Sole a salvarvi, quell'altro lo abbiamo fatto fuori, si riferivano a Giuliani, nota del redattore. Sono continuamente sputi, calci, gruppi di poliziotti e carabinieri si danno il cambio. Alle ragazze hanno detto cose terribili, racconta Guido. A una hanno cominciato a dire: che bel culo, adesso ti portiamo di là e ti trombiamo tutti quanti. Per fortuna c'era un carabiniere giovane che quando gli altri uscivano dalla stanza cambiava atteggiamento. Ci ha regalato anche mezza bottiglia d'acqua che ci siamo bevuti in 23. Guido ha visto un ragazzo siriano con una protesi di legno alla gamba essere preso a calci perché non riusciva a stare in piedi. Un ragazzo con handicap fisici colto da un attacco di dissenteria, fatto andare al bagno senza potersi pulire. Poco prima di essere trasferiti nel carcere di Alessandria, i carabinieri pensano bene di divertirsi ancora un po'. Sentivamo dire: dai, dai, accendilo, prendi il fiammifero. E l'altro: no, è troppo pericoloso. Se poi mi denunciano, se ti denunciano, gli ammazziamo i genitori. E ci appoggiavano qualcosa in testa, non capivamo nulla. Sono andati avanti così per mezz'ora buona. Finalmente i ragazzi arrivano in carcere, è stato un sollievo, dice Guido. Ci hanno trattato bene. Prima di andare via da Bolzaneto, i poliziotti chiedono a Guido se c'è qualcuno da avvertire. Mia madre risponde, ma nessuno l'ha chiamata. E per chiudere, diciamo, ci avviamo, ormai siamo al battute finali, almeno dal punto di vista del contrasto politico, diciamo così, tra maggioranza e opposizione, tra le cose che vengono fuori, inchieste non inchieste. Il Corriere della Sera del 30 luglio, Genova, spuntano i primi responsabili. Oggi il rapporto sul blitz della scuola, i giudici accusano violenze della polizia anche nei cortei. E da questo punto di vista i primi responsabili, diciamo, avranno il nome del prefetto di Genova, ancora una volta De Gennaro se la caverà, come vedremo, perché lì ci sarà una convergenza a mettere sotto accusa appunto innanzitutto i singoli poliziotti, scaricare quindi su comportamenti personali. Infatti il 2 agosto il 2 agosto Repubblica torna, diciamo, col rilievo del primo titolo, ma perché poi è in realtà un resoconto del dibattito in Senato. G8, puniremo i colpevoli, l'annuncio di Scajola. I super ispettori, licenziare il capo della Celere. Senato, respinta la sfiducia al ministro, parte sull'indagine su Genova. Fini, complici dei violenti in Parlamento. Il compagno Fini, insomma. Dopo ricordiamolo, fra l'altro, avere presenziato, mi pare, in questura o comunque in uno dei posti di coordinamento, la sala operativa dell'ordine pubblico a Genova. Diciamo, questo certamente, quando l'abbiamo saputo che stava lì, non è che ci siamo sentiti più sicuri. E Claudio Scajola, appunto, che promette di punire i colpevoli per le violenze di Genova. E si parlava addirittura nel dossier messo appunto dai super ispettori del Viminale di rimuovere il responsabile del reparto mobile di Roma, Vincenzo Canterini, che infatti abbiamo visto quanto è stato rimosso. E quindi poi c'è il giochetto, oltre che di dare la responsabilità ai gradi bassi, ma anche tutto il balletto sul fatto che è entrato prima alla Diaz, cioè deve essere stato proprio un pigia pigia, perché poi per esempio qualcuno, in tanti, decisamente in troppi, quella notte della Diaz hanno dichiarato: siamo entrati e nessuno dei miei uomini ha picchiato i ragazzi, è entrato prima quello, no, è entrato prima quell'altro. E Canterini, che ha dichiarato, dichiarò che lui era arrivato dopo nel casino, nella confusione, dice: il mio reparto è stato travolto da quelli della squadra mobile della Digos. Quindi poi, fra l'altro, i poliziotti che si sono fatti refertare, probabilmente questa non è una battuta, se sono manganellati fra di loro nella foga. Genova, slitta la decisione, il ministro punizioni severe, infatti abbiamo visto, il questore si difende e non credo, il questore di Genova, non, lo hanno soprannominato il questore gentiluomo perché era un tipo educato, il questore si difende, non credo a tanto fango. E poi il G8, la sfiducia a Scajola, Fini complici in Parlamento, l'abbiamo detto, in aula compare uno striscione di protesta, è un oltraggio. Viceversa, il ovvero viceversa per modo scusate, di... c'era un'altra cosa, cioè scoppia un nuovo caso Bolzaneto, 4 testimoni accusano pestaggi anche alla Fiera del Mare, la Digos di Genova accusa Roma, il racconto ai PM, non volevamo il blitz alla Diaz. E dagli interrogatori dei funzionari la storia di uno scontro prima dell'azione nella scuola, e poi in basso una giornata nel reparto mobile di Roma sotto accusa per i pestaggi al G8, la rivolta dei celerini, non ci faremo stridolare, perché prima sempre diciamo buttasse a Santa Nega, come si dice, tu tenere ci fu un secondo blitz, e qui per la prima volta questo giornale parla dell'ingresso di cui abbiamo appunto reso contato prima nella scuola Pascoli, che era al centro del Media Center e si trovava proprio di fronte alla scuola Diaz. La perquisizione è scattata il 23 luglio, anche oltre dopo questa cosa, e l'intervento tenuto finora segreto, trovati anche indumenti sospetti, cioè queste cose terrificanti veramente. Il Corriere dello stesso giorno, 2 agosto 2001, via dalla polizia il capo del reparto mobile di Roma. I dossier degli ispettori, Scajola nominò degli super ispettori cosiddetti, Canterini voleva sparare lacrimogeni nella scuola, disse di non poter fermare i suoi uomini. Per il calcio sferrato dal vicecapo della Digos di Genova, Perugini, a un manifestante a terra, potrebbero esserci gli estremi per un procedimento penale. Chi se lo ricorda, fu una delle immagini che girò più delle altre, insomma, questo manifestante, un ragazzino con quest'occhio già da 3-4 poliziotti immobilizzato a terra, arrivò a questo figuro in borghese che gli dette un calcio mentre era a terra. Si propone l'apertura di un procedimento disciplinare per l'irrogazione della sanzione più grave prevista dal regolamento di disciplina, la destituzione dalla Polizia di Stato, e non fu così. Nel mentre, diciamo, c'è questo ispettore, questa ispezione in corso, insomma, dei super ispettori, il senso, quello che dà il senso, no? la percezione, come si dice, di qual era lo spirito evidentemente tra le forze dell'ordine, è un fatto che è accaduto a Bologna. A Bologna è stata commissionata ad una eliografia da parte di agenti di polizia una maglietta, una t-shirt, che ne hanno ritirate in tutto una ventina di pezzi prima che il fatto fosse denunciato. Una delle magliette ritrae un anti-global immobilizzato da un poliziotto. L'altra invece raffigura un gruppo di 7 poliziotti in posa, e in entrambe le t-shirt c'è scritto in basso G8 Genova 2001 io c'ero. Canterini parla e dice: vogliono farmi fuori, va interrogato De Gennaro. Ci fu un momento in cui qualche straccio doveva volare, Canterini non ci voleva stare, chiamò in causa De Gennaro, ma il capo della polizia non poteva non sapere, dice Canterini. Gli 800 agenti del reparto comandato da lui dicono: comandante, siamo con lei. Capo del primo reparto mobile di Roma, è nato nella capitale 53 anni fa, è entrato in polizia a 18 anni, quindi una vocazione, come si dice, ha frequentato l'accademia, quindi è stato vicequestore di Pisa, poi ha diretto i reparti mobili Firenze e Milano prima di tornare a Roma. Il primo reparto mobile di Roma ha sede nella caserma Castro Pretorio, che chi è un po' più grande se la ricorda, insomma, dagli anni 70, perché anche lì ci portavano i fermati e non venivano trattati, diciamo, a cappuccino e brioche. È composto da 800 uomini. A Genova, nel blitz della scuola elementare Diaz, sono stati impiegati 70 suoi agenti selezionati. Si occupa di ordine pubblico, controllo e manifestazioni. Fini attacca l'opposizione, questo dal Parlamento. In Parlamento c'è chi ha protetto i violenti. Dio non voglia che si scoprano collusioni. Angius dei DS dice: fai i nomi. Agnoletto senza di noi sarebbe stato il Far West, la replica Crossutta, Bertinotti non c'entra con il Genoa Social Forum. Era chiaro che Agnoletto e Bertinotti non avevano la volontà di rompere con i violenti. Questa fu un attacco di Crossutta a Bertinotti e in questo caso si spese Agnoletto per difendere, diciamo, il ruolo stesso di Bertinotti. In chiusura, chiusura vera e definitiva per questi, praticamente siamo arrivati al 3 agosto, al 3 agosto del 2001, quindi sono passate circa 2 settimane dai fatti, e i fatti nella loro gravità sono ormai sotto gli occhi di tutti, e l'atteggiamento della polizia a partire da il comando centrale, quindi da una input di carattere che non possiamo che considerare politico, di impronta generale per come gestire il G8 e evidentemente in questo modo mettere in difficoltà anche la sinistra, perché poi andò effettivamente in difficoltà con tutti i mal di pancia, i contrasti eccetera eccetera che ci furono, perché non prese posizione fino a quando proprio non ci furono cose schiaccianti. Praticamente cominciarono prima a protestare le ambasciate dall'estero che i DS in Italia, si può dire. Si arriva intorno ai primi di agosto ad avere un quadro chiaro, abbastanza chiaro della situazione. Poi ovviamente, insomma, le vicende anche processuali prenderanno una strada un po' diversa per tanti versi. Inutile ricordare, ovvero è anche utile, insomma, che Plaganica non fu Plaganica fu assolto, che le inchieste tuttora in corso contano capi di imputazione per chi è rimasto ancora, sono circa una decina di persone, compagni e compagni, che rischiano pesanti condanne anche superiori a 10 anni di galera. E diciamo la situazione delle inchieste sul comportamento della polizia, che sostanzialmente, al di là di come finiranno definitivamente, perché ancora non sono finite, sostanzialmente si sono scontrate con un altro gravissimo handicap, che è quello per cui in Italia non c'è il reato di tortura. Questo va costantemente ricordato a 10 anni di distanza, perché sono passati 10 anni da quel fatto. Tutti, a tutti piace anche con sussiego ricordare e scrivere di quel quanti in questi giorni, insomma, abbiamo ci sono parecchi libri, no? Scritti su Genova nel ricordo, nel decennale, con vari punti di vista. Interni, riflessivi sullo stato del movimento, riflessivi sui processi, su quello che volete. Quello che secondo me, insomma, gli aspetti sono tanti, insomma, ma dal punto di vista, diciamo, perlomeno delle inchieste, perlomeno dell'accertamento, non della verità, ma di quello che è successo, qui nessuno si ricorda che in questo paese destra e sinistra non hanno mai mandato avanti una modifica del codice, una legge, quello che sia, la necessità per introdurre anche in questo paese il reato di tortura, perché a Bolzaneto di questo si trattò, insomma, no? A Bolzaneto e anche fuori, ma insomma Bolzaneto è l'emblema proprio di un luogo di tortura. Sì, dove, perché se per tortura appunto si intende, no, quella cosa che magari a cui ognuno poi fa riferimento mentalmente, ossia le torture per farti dire qualche cosa. Tortura come è definita da una risoluzione dell'ONU, mi pare di una ventina d'anni fa, non mi voglio sbagliare, comunque degli anni 80, e poi da un'analoga, diciamo, presa di posizione, un atto ufficiale anche del Parlamento europeo, è tortura, è ogni atto inumano e degradante, quindi, a cui viene sottoposta una persona in condizioni, diciamo, di limitazione della propria libertà, ovviamente, no? Quindi lì si è trattato esattamente di questo, perché quando fai stare in piedi 24 ore una persona insomma che ha una gamba di meno e anche, cioè, per dire una cosa eclatante, comunque tutto quello che abbiamo velocemente letto e che molti ricordano e che forse qualcuno che ci ascolta ha subito personalmente, e di quello stiamo parlando. L'Italia così attenta a equipararsi e a mettersi in riga rispetto a altre indicazioni dell'Unione Europea si guarda bene invece dal nessuno, non si capisce perché propone, qualcuno l'avrà fatto ma dormirà in qualche cassetto, una legge contro la tortura che prevede prescrizioni più elevate perché è un reato estremamente grave, perché qualcuno che dovrebbe in teoria proteggerti, salvaguardarti eccetera invece abusa del suo potere e ti provoca danni fisici e psicologici gravissimi. Questo mentre invece sappiamo che molte delle inchieste, dei processi insomma nei confronti del comportamento poliziesco a Genova stanno cadendo in prescrizione, questo soltanto per il significato poi che determinate sentenze hanno, non per altro, perché conoscete poi come chi vi parla da questa radio la vede rispetto a questa questione. E per il senso della, se non della chiusura formale, ma insomma della chiusura come vicenda e anche la quadratura del cerchio tra equilibrio politico e situazione inchieste, a parte situazione diciamo meglio non inchieste che andranno come dicevo avanti nel tempo e non sono ancora chiuse per tanti versi, ma chiusura ed equilibrio con i vertici della polizia, quindi inchieste interne, riequilibrio interno, diciamo, ce la dà come sintesi il titolo del Corriere della Sera del 3 agosto 2001 che dice: terremoto al Viminale, le misure dopo i rapporti dei super ispettori sulla gestione dell'ordine pubblico. Scajola, decisioni assolutamente opportune. Accuse per il G8, rimozioni ai vertici della polizia. Il vice capo Andreassi, il responsabile dell'antiterrorismo e il questore di Genova costretti a lasciare i loro incarichi. La Barbera, accetto se serve allo Stato. Colucci, numero uno nella città ligure, un'ingiustizia. Tensione tra gli agenti. A suggellare il tutto il fondo di Paolo Franchi che dice: una dolorosa necessità. E mi lascio immaginare, insomma, no, queste suonate, diciamo così, che quando pur di archiviare Genova, insomma, e di andare avanti come poi fu fatto, pur di archiviare Genova, qualcosa si fece pagare a qualcuno relativamente, insomma, perché poi in galera non c'è andato nessuno, e punto a capo, si tirò avanti. Ma se questa è la chiusura, diciamo così, che potremmo dare a questa rassegna stampa dei fatti presa con giornali che abbiamo conservato per 10 anni dall'epoca, insomma, proprio perché pensavamo che fosse un fatto non da cui non si poteva tornare indietro, ma insomma un fatto di determinate rilevanze sul piano, su tanti aspetti, insomma. Però se questa, come dicevo, è stata la, può essere considerata la chiusura dal punto di vista del potere della vicenda Genova, altrettanto non si può dire della diciamo così della dal punto di vista politico, delle riflessioni, insomma, no? che Genova ha lasciato, diciamo così, non solo in salute, ma proprio non affrontate, non considerate, insomma, il dibattito politico dopo Genova nell'ambito delle situazioni di movimento è stato, possiamo dire, carente, non lo so, insomma, si è molto andato avanti dal punto di vista del gestire la repressione e diciamo riflessioni di carattere più politico sono in qualche modo mancate. Mancate da parte di tutti, evidentemente, qui non è una questione di fare un elenco di priorità da questo punto di vista. Per cui io questa mattinata, viceversa, la vorrei chiudere con una intervista pubblicata dal Manifesto di domenica 22 luglio, quindi a botta caldissima, siamo all'indomani della fine della manifestazione di sabato del 21, è lo stesso giorno in cui Rossanda, nel suo articolo di fondo, dice chi ha vinto a Genova, e dice praticamente che ha vinto Agnoletto, nonostante Black Bloc, eccetera, e all'interno c'è un'intervista a Bertinotti. Intervista a Bertinotti fatta da Cosimo Rossi, il titolo è Qualcosa di nuovo, parla il segretario del PRC, la tragedia e gli scontri non possono celare un fatto gigantesco. Una generazione si propone in movimento reagendo al mix di violenze esterne e cariche di polizia. Tutta l'enorme, non la leggo tutta, ma alcuni passi sì, perché secondo me sono significativi. Tutta l'enorme tragedia del giovane ucciso e i fatti gravi della manifestazione secondo me non possono nascondere un fatto gigantesco. Siamo di fronte alla vera nascita di un movimento. Il dato dominante resta la tragedia, dice Bertinotti. La sequenza delle responsabilità secondo me è in quest'ordine. Primo, la blindatura e la militarizzazione della città progressiva, esponenziale, fino a trasformare Genova in un labirinto. La causa motrice è l'idea stessa del G8, l'esproprio civile e politico della città, le mani militari sulla città per difendere un esercizio di potere. Il secondo elemento è un comportamento delle forze dell'ordine rivolto completamente a colpire il movimento, tanto da mettere in luce la libera iniziativa della frangia violenta ed esterna al movimento, precisamente identificabile e configurata, che ha scorazzato per tutta la città. Terzo, l'uso delle armi da fuoco, di cui il Genova Social Forum aveva chiesto esplicitamente il bando. Ma si può davvero dire che il Black Bloc sia una frangia esterna? Non si può dire, si deve dire, mi si dimostri il contrario. Il Genova Social Forum è composto da 700 associazioni che si sono date un codice comune. È una frangia esterna perché il movimento l'ha estromessa. La discussione che una domanda questa, chi si è avvitata intorno alle linee di confine, sui simbolismi, ha anche fatto passare in secondo ordine i contenuti e i valori della mobilitazione. Non sono d'accordo, dice Bertinotti, sono proprio convinto che siamo di fronte a un evento e gli eventi vanno decodificati con una logica interpretativa, non come si fosse di fronte a una manifestazione ordinaria, con una piattaforma di cui si guarda la densità. Questa discussione è scavalcata. L'evento va interpretato secondo un canone diverso. Quello fondamentale è il metalinguaggio. Una rigenerazione si propone in movimento. Oggi l'80% aveva meno di 30 anni e in qualche modo si era visto nello sciopero dei metalmeccanici. Questo di oggi è appunto il balzo di una generazione. E questa generazione nel suo manifestare non è scindibile in contestazione della repressione, G8, globalizzazione, governo, perché tutte queste facce del prisma sono metabolizzate in un movimento che ha come ragione fondamentale la sua ragione di esistenza. E conclude Bertinotti dicendo, naturalmente questo movimento sa che ha un problema di contenuti, per questo ad esempio usa Porto Alegre, perché è un movimento che usa il singolo anche come supplenza. Ha scelto il simbolo come traduzione della propria crescita, non solo per il carattere estremamente contemporaneo della lotta simbolica, ma per dirla così in questo caso svolge attraverso questo un ruolo di supplenza. E intanto stanno accadendo cose. Agnoletto ha annunciato che il Genova Social Forum si costituirà in forum sociale. Dunque questo movimento dei movimenti si dà delle sue istituzioni, come tutti i movimenti forti. Come si fa a non vedere che questo mosaico si dà lineamenti programmatici? Non sto dicendo che ciò basti, anzi, penso che questo movimento proponga alle forze della sinistra alternativa, le uniche che possono interloquire con esso, un problema politico gigantesco, cioè il problema della riforma dei soggetti politici della sinistra di alternativa e della sinistra sociale, l'irruzione di questa generazione sulla scena della politica organizzata. Posso solo dire che se questo movimento, come diceva Bertinotti in questa intervista, è stato un evento enorme, il movimento dei movimenti, e più avanti dirà che è la terza potenza mondiale, e che questo movimento aveva posto degli interrogativi alla sinistra italiana per come sono andate le cose, o la sinistra italiana non ha capito niente, compreso lui, o questo movimento non aveva posto le domande giuste. Io posso immaginare che cosa ha in quel momento Carlo nella testa, ma che cosa vuoi fare con quella pistola? Mi dice. Ma che cosa vuoi fare con quella pistola? Ma mettila via quella pistola. E vuole fermarla. C'era un ragazzo fra chi un po' come me sognava di cambiare questo mondo che non c'è. Una vita in città del best alla focaccia. Tu chissà quante volte hai visto la sua faccia. È stato infamato, ricordato tra gli eroi, ma è la madre a dirci che era uno di noi. Noi che lo sappiamo come vanno certe cose, quando in mano sogni un mitra se non basta un estintore. Con tutte le parole, colpo secco di un grilletto, la luce, le sole, il cemento come letto. Le rode sul suo corpo, mi sto ancora chiedendo perché pure schiacciarlo mentre stava morendo. Vittima dello Stato, accusato e condannato su una pubblica piazza che non ti ha mai scordato. Riportato il tuo nome sulla targa in quel palazzo, piazza Carlo Giuliani, ragazzo. Ora la gente non scappa più, lancia questa sto dai, un fatto alla TV. Ora la gente non scappa più, prende coscienza in piazza, si rivede su YouTube. Troppe botte, ossa rotte, manganelle, gas CS, risposta coi bastoni, con i caschi sulle teste. La fuga si è fermata, tutti fronte ad un cordone di strada, una maglietta con sopra il tuo nome. Sono passati 10 anni, ancora tutto assoggi dopo tutti questi danni. Non provare a darmi una motivazione, non rispetto una divisa che difende la nazione. Ma quale difesa? È una resa a drappo bianco, colorato di rosso come sangue di chi è stanco. Di ogni abuso che sicuro poi resterà impunito, casco blu lo maledico, fai di sasso il terzo dito. Mai capito il motivo di un silenzio generale, l'indignazione zero per chi spara le statale. Tutto uguale e banale, se c'è scappato il morto, la gente resta muta e si scorda. Dopo un giorno basta poco, due parole come due enormi suole schiacciano la verità che brucia più del sole. Le persone che ci attorno stando assieme lo sappiamo, se teniamo il tuo ricordo non sarai morto in vano. Sarai morto in vano fra. Ora la gente non scappa più, lancia questo sasso dai, un fatto alla TV. Ora la gente non scappa più, prende coscienza in piazza, si rivede su YouTube. Troppe botte, ossa rotte, manganelle, gas CS, risposta coi bastoni, con i caschi sulle teste. La fuga si è fermata, tutti fronte ad un cordone di strada, una maglietta con sopra il tuo nome. Il tuo nome. Ora la gente non scappa più, lancia questo sasso dai, un fatto alla TV. Ora la gente non scappa più, prende coscienza in piazza, si rivede su YouTube. Troppe botte, ossa rotte, manganelle, gas CS, risposta coi bastoni, con i caschi sulle teste. La fuga si è fermata, tutti fronte ad un cordone di strada, una maglietta con sopra il tuo nome. Il tuo nome, il tuo nome. Ok, il prossimo pezzo si intitola Caso Archiviato ed è dedicato a Carlo Giuliani e agli abusi di potere degli sbirri al G8 ogni giorno, e tutte quelle che si consumano quotidianamente ogni giorno in Giamaica pure, voglio in Giamaica non si faccia solo a Carlo, voglio sotto la problema sera. Che scomparisca la verità, foto firmate e testimonianza di tutte dalla repressione e l'intolleranza. Vedo un potente che è la pazza, discute solamente dell'alta finanza. stanza. Te diri di un manello e chissà cosa. Scende porta, sotto. Quando volo fuori, hey! Che è rimasto senza. Caso archiviato, luglio 2001, non c'è mai stato. Sento il dolore che mi spezza il fiato. Viene riportato, se chi ha parato è già tutto risagliato. Caso archiviato, luglio 2001, non c'è mai stato. Sento il dolore che mi spezza il fiato. Viene riportato, se chi ha parato è già tutto risagliato. Ça va? Bollino! Ça va, Ale? Oh! Chiave! Ehi! Sì, sì! Non più una cristiana! Non più una cristiana, calma e mi pensa. Ma che soddisfatta adesso alza la testa. Strumento al verde paragone. Ma con terrorista divise che se scude ti preparo la festa. Calcia, cazzo, tra manganelle e lacrimogeno. Che la democrazia è una boccata d'ossigeno. E se può parte un bel colpo a sorpresa. Non preoccuparti, sai, è legittima difesa. Sono archiviato luglio 2001, non c'è mai stato. Sento il dolore che mi spezza il fiato. Di nel riportato, se chi ha sparato già sono archiviato luglio 2001, non c'è mai stato. Sento il dolore che mi spezza il fiato. Di nel riportato, se chi ha sparato è già tutto insabbiato. Usted voglio una. Ehi, show. Questa è una casa figa, ehi, quando ha tutto l'abuso da potere, delle sbirre,